Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È uscito ieri in libreria il nuovo romanzo di Paolo Giordano. Nel 2008 Giordano era stato un caso editoriale con La solitudine dei numeri primi. Vinse il premio Strega, il Campiello per Aprima e fino ad ora ha venduto circa 2 milioni di copie. Il nuovo romanzo si intitola Il corpo umano, sempre pubblicato da Mondadori. È un libro bello che conferma Paolo Giordano come scrittore e non come una meteora. Un libro all'apparenza molto diverso dal primo e ambientato in Afghanistan in una base militare italiana. Ma perché ha deciso di cambiare registro e perché ha scelto l'Afghanistan come ambiente? Sentiamo che cosa ci ha risposto. Non penso si sia trattato di cambiare per cambiare. In realtà io cerco molto una continuità fra le cose che faccio. Penso sia perché mi piace negli autori che seguo riconoscere almeno un barlume di percorso e quindi non vedere delle opere staccate l'una dall'altra. Quindi in realtà penso che nel libro ci sia una strana continuità con La solitudine dei numeri primi. Però sicuramente ho cambiato molto contesto e la scelta è ricaduta alla fine sull'Afghanistan e su questa base militare isolata, penso per un mio bisogno di forte chiarezza. Quando sono andato a visitare questa missione italiana, in realtà non avevo ancora la convinzione o l'idea di scrivere un romanzo ambientato lì, anche perché mi sarebbe sembrato quasi velleitario parlare di guerra per me che non ho neanche fatto il servizio di leva. E quindi sono andato con ambizioni molto più piccole, eppure ho trovato questo luogo isolato, abitato da ragazzi della mia età, in cui la cosa sorprendente era il modo con cui le umanità delle singole persone venivano fuori, con una brillantezza che qui, nella vita comune, è sempre molto offuscata da tante cose. E invece in quel luogo desertico, solare, era come se d'un tratto io riuscissi a vedere in modo evidente molte cose di cui volevo parlare, alle quali stavo girando intorno da mesi, e perché volevo parlare di ragazzi della mia età, quindi sulla soglia dei 30, volevo parlare di quel passaggio, eppure non riuscivo mai a trovare una chiave. E l'ho trovata lì, proprio in un contesto molto alieno, proprio perché questa base offriva quasi un laboratorio di osservazione straordinario, per le stesse dinamiche della mia vita anche. Una sorta di continuità con La solitudine dei numeri primi io l'ho ritrovata, soprattutto nelle parti in cui analizzi i sentimenti, le emozioni, i legami fra questi soldati o fra i soldati, le loro compagne, e poi c'è addirittura un rapporto fra un soldato e sua sorella che in qualche modo può ricordare. Queste secondo me sono le parti più riuscite del tuo romanzo, perché hai una grande capacità di entrare nell'animo umano e nelle relazioni. È per questo che ti concentri sempre su questo aspetto. Insomma, questo non è un romanzo di guerra, è un romanzo che parla della guerra, ma che parla soprattutto di sentimenti. Sì, credo di avere una vocazione, innanzitutto da lettore, non estremamente, di avere una vocazione a un certo tipo di sentimentalismo addirittura a volte in ciò che leggo e quindi anche in ciò che scrivo. Cioè, nonostante con il passare del tempo uno possa pensare di affinare i propri gusti anche formali, quello che alla fine continuo a cercare, di cui sento il bisogno mentre scrivo, è di scavare dentro un qualche tipo di emozione e soprattutto dentro rapporti umani. Perché altrimenti mi sembra di scrivere attorno al niente. E quindi, diciamo, forse in questo romanzo non è stato così evidente e facile fin dal primo momento. Ho dovuto raggiungere molti personaggi lentamente, avvicinarli molto da lontano, anche perché alcuni sono estremamente diversi e distanti dalla mia sensibilità e perché il luogo era un luogo lontano, il contesto era un contesto del quale io non avevo esperienza diretta al di fuori di quella di osservatore. Quello che secondo me fornisce la vera credibilità, il collante di tutto, è il mettere in campo poi dei rapporti e delle situazioni umane che sono del tutto universali, che addirittura in un luogo come quello e in una situazione precaria come quella della guerra diventano ancora più assoluti e universali. Forse è il motivo per cui raccontare la guerra resta comunque anche ai nostri tempi, credo, una delle ambizioni maggiori di ogni romanziere, come se fosse davvero un punto di arrivo. Un'altra cosa che mi ha stupito di questo romanzo è che all'interno appunto di questa base italiana in Afghanistan emerge la fragilità umana dei nostri militari, ma anche un po' l'impreparazione di questi giovani. Questo è stato frutto così della tua fantasia di romanziere o effettivamente così secondo la tua esperienza? Io credo di avere una tendenza naturale a scavare nelle debolezze più che nei punti di forza e di onore. E il modo di vedere, diciamo, l'intera situazione è estremamente soggettivo. Il libro, resta al di fuori, penso, di ogni giudizio freddo riguardo sia alla guerra in sé che riguardo all'essere soldati di qualunque tipo. Io volevo una visione estremamente interna della cosa. Tuttavia, credo che, insomma, il libro parla di ragazzi il cui più giovane ha appena 20 anni. Uno a 20 anni è impreparato a qualunque cosa. Figurarsi se non è impreparato a trovarsi in mezzo a un deserto dell'Afghanistan sotto la minaccia di fuoco nemico. Mi sembra, come dire, non penso sia neanche velatamente una critica al sistema che io appunto conosco in modo esteriore, quindi non mi permetterei di giudicare. È una critica forse al fatto appunto di avere 20 anni e trovarsi in mezzo a una guerra vera. In questo romanzo, il corpo umano, ci sono tanti personaggi, è un po' un romanzo corale. Io ne ho identificati alcuni, diciamo, principali: Egitto, Cederna, René e Ietri. Se tu dovessi, così dire, proprio due parole, due aggettivi per ognuno di questi personaggi, come li definiresti? Egitto è la voce più consapevole del libro e forse anche quella più intimamente sofferente della storia. E fa da collante a queste storie che altrimenti sarebbero ognuna un po' staccata dalle altre. René è il personaggio più difficile che io abbia mai affrontato e anche quello di cui oggi vado più orgoglioso forse, perché è un personaggio che ho dovuto aspettare, l'ho aspettato per più di un anno e l'ho veramente aspettato e a un certo punto questo personaggio è venuto fuori, forse perché io sono maturato nella sua direzione. Cederna è un personaggio contraddittorio che non fa simpatia sicuramente a nessuno, che incarna quasi uno stereotipo che noi associamo al militare, al soldato in generale. Eppure che contiene, secondo me, in alcuni margini una sua saggezza e soprattutto un suo dolore, che viene fuori anche lì, molto alla fine, un altro personaggio che ho dovuto molto lasciar crescere. E Ietri è un po' il mio modo di chiudere i conti con una parte della mia vita che è finita, quindi con la parte giovane di me. Ed è un personaggio, penso, che si sente sulla pelle in modo molto istintivo, forse quello con cui empatizziamo immediatamente senza neanche saperne il motivo. Con questo romanzo sicuramente ti confermi uno scrittore valido e non una meteora nel mondo dell'editoria italiana, questo è il mio parere. Il linguaggio, per esempio, dei tuoi libri e soprattutto di questo, è molto curato, non è mai banale, però è molto semplice, di facile accesso ed è scorrevole. Che tipo di lavoro metti nel linguaggio, fai sul linguaggio? Per me è come se la semplicità della forma fosse sempre un punto di arrivo in realtà, non un punto di partenza dal quale distaccarsi. Per cui penso di fare un percorso circolare, di partire da idee narrative piuttosto semplici, di complicarle nella mia testa e poi in diverse stesure fino all'estremo, e poi da quello per un'esigenza in realtà più che mentale, un'esigenza istintiva di quando rileggo la pagina, da questa complessità io torno a semplificare estremamente, perché non mi piacciono gli ostacoli nella lettura e perché oltre a questo ho una convinzione anche, ho la convinzione che oggi sia necessario essere stratificati nella complessità di un'opera. Per cui credo che il tentativo che avevo già fatto con il primo libro e che faccio con questo è quello di dare diversi livelli di accesso, ma che il libro sia fruibile a un livello zero di piacevolezza di lettura, senza fatica, che sia davvero aperto anche a tanti lettori. Non penso sia una cosa che uno si deve vergognare di dire, nonostante questa non sia, come dire, una mia ambizione, quella di arrivare a troppi lettori. Però l'idea è che il libro si legga scorrevolmente, ma che si possa scavare sempre di più fino a quel grado, diciamo, massimo di complessità che forse è nascosto sotto. E questo era Paolo Giordano, ora in libreria con Il corpo umano, pubblicato da Mondadori. Questa è solo la prima parte dell'intervista, la seconda andrà in onda sabato prossimo alle 6.45 e alle 21.05. La troverete anche su www.radio24.it nella sezione Il cacciatore di libri. Vi ricordo anche che gli ascoltatori di Radio 24 hanno un'occasione unica per visitare la mostra di Picasso a Milano. Il primo di voi che invierà un sms al 349-238-6666 con scritto Picasso più il proprio indirizzo mail riceverà due biglietti per una serata esclusiva organizzata per il 24 ottobre. È tutto per oggi, un saluto da Alessandra Tedesco.